Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaia. Buongiorno e buona domenica. Allora, stiamo continuando, no? Questa nostra, come possiamo dire, questo nostro impegno per il Natale. Si avvicina sempre di più il Natale, si parla di adozioni dei cani, ma al di là del Natale, come noi sappiamo, bella, la gente White Christmas ad acquistare i regali. White Christmas, I gave you my heart and a very next day. E quindi dicevamo, cari nostri ascoltatori, qualcuno bene di voi probabilmente starà pensando, conosce un amico che sta pensando di regalare un cane a Natale, e noi vi stiamo dicendo, non è sbagliato in sé per sé adottare cani a Natale. L'importante è che si passi da questa concezione del regalo, cioè faccio la sorpresa a questa persona che non si aspetta niente, alla concezione invece che un'adozione in piena regola, che quel cane lì vivrà con te un decennio, se non addirittura due, e questo insomma comporta delle responsabilità. Allora, che cosa ci siamo inventati? È fatto una cosa anche veramente bella, partendo anche da quel papà che aveva fatto il contratto con, sì, il suo figlio, che ne avevamo, no, parlato un po' di settimane fa. Hai fatto la dichiarazione di fedeltà al cane. Dichiarazione di fedeltà al cane, la trovate sui nostri social, e ne stiamo parlando insomma in queste puntate, che è praticamente un contratto con te stesso, un impegno con te stesso e con il tuo cane. E con i genitori, eventualmente, se questo contratto lo firmano i genitori con i figli. Tra l'altro potete partecipare anche dandoci delle idee, perché questo è stato fatto tempo fa e lo stiamo rivedendo. Per esempio, ci piacerebbe dare del tuo all'interno. Ah, la grafica è stata curata da Luca Rondoni, che è un bravissimo grafico, mentre i contenuti da educatori cinofili, da un brainstorming venuto fuori da educatori cinofili ed esperti di canile. Allora, che cosa dice questa dichiarazione di fedeltà al cane? L'abbiamo già detto in tutti i suoi punti domenica scorsa. Dobbiamo invece prendere punto per punto per capire meglio di che cosa si tratta. Sì, diciamo così anche che come scrivi tu qui in basso a sinistra, questo documento non ha valore legale. Certamente. E ti chiediamo solo di non dimenticare mai l'impegno che hai preso verso il tuo cane. Esatto, quindi è una forma di rendere consapevole. A noi ci è venuta l'idea, sentendo quel papà coi figli in America che chiedevano sempre il cane, a un certo punto ho detto va bene, ve lo prendo, però dovete firmare un accordo con me che vi prenderete cura di questo. Ecco, noi ci avevamo pensato già qualche anno fa, l'abbiamo ritirata fuori questa cosa perché è funzionata molto bene, e devo dire che i riscontri che stiamo avendo oggi sui social sono molto molto forti. Allora, che cosa significa questa cosa? Che ti aiuta a vivere una vita serena. Noi abbiamo notato, noi educatori cinofili, che i cani hanno problemi comportamentali quando non ci si occupa per bene di loro. Certo. Spesso le persone sottovalutano l'impegno che è un cane a casa, quando invece lo prendono in considerazione fin dall'inizio, fanno questa cosa consapevolmente, con coscienza, e poi hanno una vita in discesa. Certo. Con il loro cane. Allora, il primo punto dice: io sottoscritto mi impegno solennemente a, punto primo, riconoscere la sua diversità come una ricchezza, perché i cani effettivamente, come sappiamo, sono diversi. Certo. Da noi è importante, sai quella volta che tu hai parlato a Nemo, no? Quando noi diciamo ma io, caspita, lo tratto come un bambino, ma cosa vuole di più mio, certo, cane? Perché, perché abbiamo questa idea falsata che se tu tratti un cane come un bambino, qualcuno come un bambino, lo stai trattando benissimo. Ma no, perché il bambino e il cane hanno bisogni differenti, quindi se tu mi tratti il cane come un bambino non lo stai trattando meglio, non lo stai già maltrattando. Una famiglia dove ci sono più di un figlio, due figli o tre figli, quando si diceva una volta, lo sentivo dire da mia nonna, vi ho trattato tutti e tre allo stesso modo, è sbagliato, anche se fatto in buona fede, no? Perché sì, ogni essere umano, ogni figlio, anche la stessa famiglia, a parte che hanno età diverse, ma hanno sensibilità diverse, hanno attitudini diverse, hanno bisogni diversi, quindi uno deve proprio approcciarsi osservando l'altro e vedere che cosa ha bisogno. E in quel momento della sua vita, esatto, della sua crescita, lo stato in cui si trova, lo stato emotivo in cui si trova in quel momento. Però diversità è anche il fatto che il cane vive le cose in modo diverso da noi. Per esempio, quando noi ce ne andiamo in giro, ci guardiamo intorno e diciamo ecco, sono in questo posto qua, uh-huh, per me sono contento così. Uh-huh. Il cane invece ha necessità soprattutto di annusare. Allora, che cosa succede? Che tu magari te ne vai a casa di amici, in ambulatorio, in un negozio e via dicendo, e non consenti al cane di annusare, perché non capisci che in realtà quello è una sua particolarità. È un modo di socializzare. Allora, questo vuol dire che i cani per forza devono usare tutto e dappertutto. Certamente possono anche imparare a trattenersi da questo con però... il tempo. Però se volete farli sentire meno stressati e più tranquilli, conviene prima che annusino un po' in giro, perché si rendano conto di dove perché si trovano. Perché è il loro modo di socializzare anche. Esattamente. Questo è il motivo per cui utilizzo uno dei esatto, motivi. Bravo, te lo stavo per chiedere. Lungo e pettorina in giro, perché quando e tu non te ne il vai, collare il collare preferisco evitarlo, lascia il cane più libero di comunicare tra cani, da meno problemi alla trachea cervicale, via dicendo, ma soprattutto il guinzaglio lungo, cioè quando è possibile allungo il guinzaglio. Perché? Perché mentre per noi quando si va in giro tu ti guardi in giro e per certo. te è normale così e fai hai un'andatura piuttosto regolare, il cane, come avete notato, la maggior parte dei cani annusa, poi si ferma, poi ti va davanti, poi ti va di fianco. È un suo particolare modo di approcciarsi al mondo. Quindi noi, se rispettiamo questa cosa, avremo un cane meno stressato e ci insegnerà anche delle cose. Che cosa? Che ci sono punti di vista differenti. Ecco perché è una ricchezza. Ecco perché ti aiuta a capire come affacciarti al mondo attraverso finestre che non sono le tue. È un'espansione di coscienza. Ecco perché, chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva animale. La prospettiva animale, cioè imparare a mettersi nei panni degli altri fa sempre bene, perché abitua, magari qualcuno inizia a farlo con il cane e poi ti abitui a farlo anche fra persone, no? E chiudiamo con questa riflessione. Mm-hmm. Quando tu cominci ad occuparti di che cosa veramente ha bisogno l'altro e piace l'altro, cominci a interrogarti su te stesso: ma che cosa veramente ti piace? Non è che per caso tu stai facendo un lavoro, una vita che qualcun altro ha deciso per te? Rispondeteci, scriveteci i vostri commenti su chiedimi se sono felice @radio24.it. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Eccoci qua. Adesso abbiamo una cosa veramente meravigliosa, perché in questi giorni abbiamo avuto l'opportunità, io e Angelo, di vederci questo docufilm fantastico, prodotto, interpretato, cioè fatto da DiCaprio. DiCaprio è andato a fare in tantissimi mesi, ha voluto capire... Circa tre anni. Una ricerca durata circa tre anni. Ha voluto capire personalmente e da vicino lui che cosa sta succedendo realmente nel mondo sotto il profilo del clima. Esatto. Come stanno ora, veramente vi le starete cose. Chiedendo cosa c'entrano i cani col clima, però io ci tengo a sottolinearlo questo. Questa trasmissione, che si chiama Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva degli animali, serve proprio a questo. Cioè gli animali ci aiutano ad avere diversi punti di vista e farci capire che tutto è interdipendente. Non possiamo occuparci soltanto dell'umanità, è un'illusione. Dobbiamo occuparci dell'ambiente in cui viviamo, perché è grazie a quello che noi esistiamo. L'aria che respiriamo. Esatto. Emerge e c'è grazie all'intervento di diverse forme di vita, e noi dobbiamo occuparci di questo. Allora, DiCaprio ha fatto questo bellissimo documentario, è andato in onda su National Geographic, è stato pubblicato gratuitamente ovunque, anche su YouTube, quindi lo su ritrovate YouTube, lì, su Facebook, su qualunque piattaforma. Il titolo italiano è Punto di non ritorno, il titolo in inglese è Before the Flood, che sarebbe prima dell'inondazione. Prima dell'inondazione. Allora, noi vogliamo farvi ascoltare la parte finale, il discorso che Leonardo DiCaprio tiene all'ONU, se non ho capito male. All'ONU, sì. Tenete presente che Leonardo in questi tre anni è riuscito, ha avuto l'opportunità di confrontarsi con Obama, con Papa Francesco, cioè è andato veramente proprio sul posto fisicamente a vedere che cosa succede, cioè non ha lasciato niente al caso, è stato di una generosità estrema, cosa che tutti quelli che hanno una vita più agiata e più possibilità dovrebbero farlo, no? Perché lui ha i mezzi, ha la possibilità, ha il tempo per permettersi di fare questo. Ma io lascerei la parola a Leonardo DiCaprio. L'ultimo relatore di questa giornata è il premio Oscar come miglior attore, nonché ambasciatore di pace delle Nazioni Unite, signor Leonardo DiCaprio. La ringrazio, signor segretario generale, per l'onore che mi ha riservato. E ringrazio gli illustri esperti di climatologia riuniti qui oggi per fornirci risposte concrete. Nel mio ruolo di ambasciatore di pace, ho viaggiato in tutto il mondo negli ultimi 2 anni. Ho visto una città come Pechino soffocata dall'inquinamento. Antiche foreste boreali in Canada completamente distrutte e foreste pluviali in Indonesia ridotte in cenere. In India ho visto raccolti sommersi da un'inondazione e in America il livello del mare innalzarsi fino a invadere le strade di Miami. In Groenlandia e in Artide gli antichi ghiacciai stanno rapidamente scomparendo, ben prima rispetto alle previsioni scientifiche. Tutto ciò che ho osservato e che ho imparato nel corso del mio viaggio non ha fatto che aumentare i miei timori. Penso alla vergogna che proveremo quando i nostri figli e i nostri nipoti capiranno che noi avevamo la possibilità di fermare questo scempio, ma che semplicemente non c'era la volontà politica di farlo. Sì, abbiamo raggiunto l'accordo di Parigi. Mai era accaduto nella storia dell'umanità che così tanti paesi si riunissero intorno a una stessa causa comune. E questo ci fa ben sperare. Tuttavia, la scienza ci dimostra che non è sufficiente. Serve un cambiamento radicale e immediato. Bisogna far nascere una nuova coscienza collettiva. L'umanità deve conoscere una seconda evoluzione e il tempo a nostra disposizione non è molto. Tutti noi dobbiamo ricordarlo. Non dobbiamo adagiarci sugli allori. Tutto sarà inutile se i leader mondiali torneranno nei loro paesi senza mettere in pratica le promesse contenute in questo storico accordo. Dopo 21 anni di dibattiti e di conferenze, è il momento di mettere da parte le reticenze, le scuse, le infinite ricerche, i tentativi da parte delle industrie petrolifere di condizionare la scienza e le scelte politiche che incidono sul nostro futuro. Il pianeta conta su di noi. Le future generazioni potranno lodarci oppure denigrarci. Noi rappresentiamo l'ultima speranza della Terra. È nostro dovere proteggerla, o per noi e per tutte le forme di vita che amiamo. È la fine. Grande. Bisogna far nascere una nuova coscienza collettiva. Io vorrei portare l'attenzione anche su alcuni punti, no, di questo documentario. Uno mi ha abbastanza impressionato, anzi fortemente impressionato. Io sapevo che ci fosse questo problema dell'olio di palma, per esempio. Però sai, vedere quelle foreste così bruciate, animali che non vivono più, hanno dovuto addirittura prendere degli oranghi e farli vivere in apposite strutture perché non c'era più posto per loro. Mamma mia. Una volta mi ricordo, ho visto una fotografia di un animale che era lì, tornava esattamente dove lui aveva sempre vissuto ed era costernato dal fatto che al posto dei suoi alberi e della sua foresta ci fosse tutto quanto raso al suolo. E questo naturalmente ha portato anche dei cambiamenti climatici, adesso lo stiamo pagando noi. Allora, la nuova coscienza collettiva, dicevo, è importante per quale motivo? Perché in questi anni stiamo vivendo un momento in cui sembra che ci vogliano far capire che noi non possiamo far nulla, no? Cioè, bisogna rassegnarsi ai grandi poteri, quando invece questa cosa non è vera. Quindi all'interno dello stesso film, per esempio, c'è un'intervista ad un esperto, ve lo lascerò guardare, lui dice, beh, prendete Obama, all'inizio si è dichiarato sfavorevole alle unioni civili tra omosessuali, ma poi è cambiata l'opinione, certo, pubblica, i sondaggi hanno detto che la maggior parte delle persone erano favorevoli, lui ha cambiato idea pubblicamente. Questo è un modo di essere intelligenti, allora, questo è un modo di cambiare idea in modo intelligente, mentre io non condivido quando uno cambia idea a seconda dei favori che vuole o dei poteri a cui si vuole associare. Sono due modi di cambiare idea completamente diversi. Questo, Sì, vabbè, però l'ha fatto. Però l'ha fatto perché per il popolo ha deciso che era meglio. Ho capito, una cosa, ma c'è anche chi lo fa invece non perché il popolo decide, perché vorrebbe influenzare il popolo. Sono due cambiamenti d'opinione diversi. Però a parte questo dibattito fra me e te, no, io faccio presente, per esempio, come stanno cambiando le scelte all'interno dei supermercati. Cioè, hanno visto che le persone sceglievano maggiormente prodotti biologici piuttosto che vegani, e via dicendo, e quindi questa cosa è aumentata considerevolmente. Va bene, quindi perché le nostre scelte, quello che noi pensiamo, se le facciamo facciamo conseguire il nostro pensiero ad una scelta, ad un'azione, questo può influenzare. Obbliga, sì, certo, chi ci governa a cambiare. Non dobbiamo mollare e rimanere fermi. Tu hai menzionato l'olio di palma, che fa male, peraltro, anche ma se questo, non è, su queste cose, sai, non ci voglio neanche entrare. Però voglio dire, la mia opinione personale è questa: se causa problemi agli animali, come sapete, io insomma sono a favore degli animali, a quanto pare fa addirittura fa male anche male. Allora, anche che noi, cosa ho fatto? Sì, ho preso i prodotti che contengono olio di palma e non li ho presi più, tanto che, certo, adesso, ecco, grazie a persone che hanno fatto la mia stessa scelta, oggi vediamole nelle pubblicità in televisione senza olio tutti di palma. Tutti ci tengono a sottolineare senza olio di palma, e che facciamo un favore non solo agli animali, ma anche questo alla nostra salute. Questo vuol dire che abbiamo i nostri acquisti hanno un ma certo io volevo potere. Dare una notizia bella, e volevo dire anche una cosa adesso per la prima volta qui ai nostri radioascoltatori, a tutta l'Italia che ci ascolta. Tu hai fatto TED. Ah beh, sì, recentemente. Tu hai fatto TEDx Lake Como, che sono queste conferenze internazionali, nascono in America, fra l'altro molto molto interessanti, se vi capita di ascoltarle, di vederle, sono fantastiche. Sì, andate, cercate su Google TED, andate sul sito delle conferenze, non di quella serie televisiva che si chiamava TED, che era comunque divertente. Esatto, perché lì potete, a seconda di cosa vi interessa, potete ascoltare veramente delle persone competenti che in 15 minuti, solamente 15 minuti, vi possono aprire gli occhi su un determinato argomento, qualunque esso sia. Quando siamo venuti, io sono venuta con te a Como poche sere fa, che tu hai tenuto il tuo TED, meraviglioso, come zoantropologo, ho conosciuto un personaggio di cui non ricordo il nome, forse te lo ricordi tu, che era un disegnatore di dinosauri. Delizioso, cioè lui ha raccontato, lui non è che disegna dinosauri così a caso come gli viene di fantasia, certo. Cioè segue proprio, lavora sì per pubblicazioni scientifiche piuttosto che Atlanti o riviste specializzate, esatto. quando si parla di paleontologia viene fuori il suo lavoro. Lui è l'illustratore e mi ha dato una notizia per me veramente rassicurante. Ma cioè? Che anche noi ci estingueremo come dinosauri. Non vedo l'ora, cazzarola, non vedo l'ora. Ma ti giuro te lo dico serenamente, perché gli ho chiesto come si sono estinti. Lui ha detto, sembra l'ipotesi più accredibile è quella del meteorite che si vede in Africa, mm-hmm. che c'è. Però lui dice, in realtà ci sono tante altre specie che si sono estinte. E l'ho guardato e ho fatto, quindi ci estingueremo anche noi? Fa sì, credo proprio assolutamente sì. E questa è una bellissima notizia. Celentano, grazie, perché insomma stiamo vivendo momenti molto felici. Giuro che anche se tu ridi, io sono seria. Anche se l'ho detto ridendo, sono seria. Perché con quello che sta facendo l'uomo, con le porcherie e le schifezze che fa, ci meritiamo l'estinzione. No, anzi, basterebbe una società non più patriarcale, secondo me. Comunque, al di là di questo, invece, voglio invitare i nostri ascoltatori ad andare sul sito di TED, perché troveranno, a parte il sottoscritto, no, che forse sul sito ufficiale di TED non so se ci sarà, però troveranno delle conferenze che durano una quindicina di minuti da parte di grandissime eccellenze nel campo della poesia, dell'ingegneria, dell'architettura, della fisica, dell'informatica, della fisica, della scienza, dell'arte, del fischio, esatto, del fischio, perché c'era anche una fischiatrice che aspetta, scusami, in particolare, perché il padre è quello che nelle famosissime colonne sonore dei film di Sergio Leone fischiava. Com'è che era? Ma mica era così? Beh, ce ne sono tantissime. Era questa? Ma ce ne sono tante, non è una. Comunque, a parte questo, perché noi non siamo così bravi. Vabbè. Adesso Peter ci troverà la sigla di Sergio Leone fischiato. No, invece voglio dire che quando tu ascolti queste conferenze hai un atteggiamento mentale di maggiore speranza nei confronti di quello che stiamo facendo, perché quella gente con la quale ho avuto l'onore di condividere il palco è gente che è appassionata del proprio lavoro e che desidera dare un contributo. E allora tu dici, ma perché non ci parlano di queste persone? Visto sì, che sono sì, migliaia tutto quello che vuoi, tutto però siccome vedo anche la maggior parte della gente comune che fa la differenza, perché è come dice anche Leonardo Di Capro, come dice chiunque ha un minimo di sale in zucca, non puoi aspettarti dagli altri, dai politici o da chi deleghi, che faccia le cose, no? Devi tu per primo iniziare a vivere una vita etica, fare delle cazzo di scelte perché che riguardino il tuo benessere personale, ma anche quello collettivo. Ecco questo qua è il papà della fischiatrice di TED. Capito? Quindi voi dovete assolutamente, non si può più dire vabbè chi se ne frega, butto lì, non faccio la raccolta differenziata, ma sì, ma che mi importa, anche se inquino, c'ho ancora la macchina col tubo di scappamento di 30 anni fa, perché tanto tutto questo torna. Giustamente ritorna. No, diciamo che non hai più ragione poi di lamentarti degli altri. Non si fra può parentesi. Fare lo scaricabarile. Quindi, come diceva Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Esatto. Chiedimi se sono felice, @di24.it. Noi riceviamo qualunque cosa. Siamo disponibili a chiacchierare con chiunque abbia voglia di parlare con noi. La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono valutare dal modo in cui tratta gli animali. Mahatma Gandhi. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E rieccoci. Eccoci, che poi oggi è il mondo dalla prospettiva di diversi animali, dalla prospettiva del gatto, dalla prospettiva del topo. Del tupo. Come diciamo a Bari. Allora, abbiamo in linea due persone. La prima, che vi ripresentiamo perché oramai è amica consueta di Chiedimi se sono felice, è la nostra esperta del comportamento dei gatti, Laura Borromeo. Ci sei, Laura? Sì, ci sono. Ciao Laura, la super esperta di gatti, la numero uno. E qua ti dovevamo per forza interpellare, perché c'è un caso molto particolare che ci segnala una nostra ascoltatrice e noi l'abbiamo chiamata. Anche lei si chiama Laura ed è qui con noi. Pronto? Sì, buongiorno a tutti. Ecco. Rosita, Angelo, dottoressa. Ciao. Allora, in modo sintetico, sì, ci racconti qual è il problema del tuo gatto? Certo, il problema è questo. Allora, mia figlia ha una villetta col giardino e ha un gatto e un cane. Il gatto, la gatta, va e viene come vuole tramite il suo sportellino basculante, quindi se ne va in giro per il paese. Quest'estate si è riempito di lucertole, cavallette, adesso ha cominciato con i topi, ecco. Topi grandi, topi piccoli. Dietro casa di mia figlia scorre un canale, probabilmente ha trovato un nido di topi, però tutti i giorni, adesso è una settimana che non si vedono, tutti i giorni pezzi di topo e alcuni li lascia anche nella sua ciotola. Oddio. Allora, tra l'altro, il cane li scippa i pezzi di topo, li mangia. Se li mangia, io ho visto 20 centimetri di topo fuori dalla bocca del cane. Oddio. Se mi si sente accapolare la pelle e poi li vomita, per cui è una situazione. Pezzi, sono ghiotti loro, quello che noi fa schifo. Allora, quindi, ricapitolando, cane e gatto in casa, il gatto può entrare e uscire dalla basculante, esce, va a caccia, prende i topi, te li porta in casa, li piazza un po' dappertutto, tra cui anche nella ciotola, e il cane fa festa. Fa festa al momento e poi sta male. Da un bel party. Esatto. Che si può fare? Tu questo volevi sapere, no? Sì, esatto, che si può fare? Ecco, non poteva risponderci meglio che Laura Borromeo. Va bene, grazie. Allora, sì, è una vicenda che chiaramente un po' ci orripila, nel senso che noi non siamo abituati all'idea che esista ancora la caccia per quanto riguarda gli animali. I gatti, che sono molto ancora vicini alla loro naturale, il loro naturale istinto, è chiaro che predino appena ne hanno l'occasione, e questo purtroppo noi non lo possiamo negare. Dobbiamo vedere il mondo un po' dal punto di vista del gatto. Perché io lo invidio un gatto così rispetto a quelli che vedo io a Milano chiusi in appartamento, che non fanno niente, si annoiano, diventano apatici. Mi rendo conto che per un proprietario vedere i cadaveri delle sue prede, d'altro canto anche la maggior parte di noi è carnivora, noi non vogliamo vedere il fatto che gli animali vengono uccisi, alcune volte anche prima di essere uccisi hanno una vita terrificante. Adesso non voglio fare paralleli, però noi vogliamo negare una realtà che esiste anche per noi, ma che neghiamo, e però se lo vediamo fare dagli animali, la cosa ci rende... Ci fa un po' impressione, perché non siamo abituati. Ma in questo caso... Io temo anche che la preoccupazione di Laura non sia soltanto il fatto di dispiacersi della morte del topo, ma soprattutto che magari a lei non fa piacere questa roba, è preoccupata forse per l'igiene. O per il cane, magari, che possa star male. Certo. Cioè, come si fa in questo caso... Purtroppo... purtroppo l'istinto della predazione è assolutamente insopprimibile in qualsiasi animale. Infatti quando si dice facciamo stare insieme un cane e un gatto, la prima cosa da valutare è l'istinto predatorio del cane, perché è assolutamente insopprimibile. Se un cane è molto predatorio, il gatto lo uccide, non si può fare altro che non metterlo insieme. Per un gatto uscire e andare a predare i topi, che sono insieme agli uccelli le sue prede, per antonomasia, è chiaro che non possiamo impedirglielo. Speriamo che il rivo sia abbastanza pulito e che i topi, cioè secoli che i gatti mangiano topi, è difficile che muoiano. È chiaro che sarebbe molto più pericoloso avere qualcuno che mette dei topicidi. Allora sì, mi preoccuperei, perché il gatto potrebbe mangiare una preda avvelenata. Però bisogna convivere. D'altro canto, non far uscire il gatto sarebbe davvero crudele, perché per un gatto che ha la fortuna di poterlo fare, beato lui, insomma. Quindi Laura, parlo a Laura, la nostra ascoltatrice, tu fondamentalmente hai creato un habitat fantastico per i tuoi animali. Sì, meraviglioso. Ma adesso lo sportellino è stato messo in modo tale che lei possa uscire ma non entrare. Quando lei vuole entrare, gratta e miagola, prima si guarda se ha il topo in bocca. Sì. Cose che non ve li porti, non ve li porti in casa. Quindi il giardino è disseminato di pezzi di giardino, topi. Sì, il giardino, i topi poi ci sono. Certo. Avevo pensato anche alla derattizzazione, cosa che tu ci avevi scritto anche nella tua mail, mi sembra, Laura. Esatto, che però mi preoccupa. Esatto, perché come ci diceva la nostra esperta, magari così è peggio, perché poi il topo si può mangiare... Esatto. Il cane, il anche che si topi. Mangia il topo, rischiano sia il cane che il gatto. Sì. Infatti, che poi Laura Borromeo, quando ci siamo sentiti in questi giorni, che le ho detto se potevamo fare la telefonica con noi, mi raccontava che, perché io gli ho detto, dico, scusa Laura, ma se facciamo mangiare tanto il gatto? E tu giustamente cos'è che mi hai detto, Laura? È una credenza popolare che, soprattutto per chi vive in campagna, io ho una casa in campagna, perciò sento i contadini che dicono non bisogna dar da mangiare ai gatti perché sennò non cacciano. Non è assolutamente così, perché i gatti predano non quando hanno fame, non per fame, ma predano perché l'istinto della predazione è attivato dal movimento della preda. Una preda che scappa cioè il gatto per lui è impossibile non corrergli dietro, infatti corrono dietro anche alle foglioline, per dire, anche agli insetti, anche se poi è puramente un esercizio. D'altro canto si devono proprio esercitare sempre, perché sennò quando devono riuscire a prendere la preda, se non si sono esercitati prima, rischiano di morire di fame se lo fanno quando hanno solo fame. Ma se uno allora gioca col gatto un'oretta la mattina e lo fa rincorrere un gomito, non so, come si faceva qualcosa, sì, lo fai giocare, sì, sono mille giochi, sì, e sì. Poi come si dice, giochi con lui anche il pomeriggio in modo da, non dico esaurire, ma soddisfare un po' questo suo istinto. Questo potrebbe far diminuire poi la voglia di andare fuori e prendere i topi, le lucertole, così? Assolutamente. C'è da fare. È più forte di lui, la predazione è stillata dal movimento, non riescono. Io ho studiato gatti, proprio anche randaggi, eccetera, ne ho avuta una che veramente mi ha insegnato il massimo che poteva insegnarmi un gatto, giocava tutto il giorno, usciva, predava, non c'era verso. E ti portava le prede proprio perché le portano in casa, per dire, se per caso poi non c'è cibo, almeno la scorta, questa è la loro idea. Porto in un posto sicuro e poi se c'è bisogno mangio anche quella. Poi tendenzialmente non la mangiano, ma dobbiamo accettare questa cosa, la predazione per un animale come un felino è assolutamente... Laura, ci aiuti? Io coglierei l'occasione, no? Ci staranno ascoltando anche tante persone che hanno il gatto in appartamento, in città, non hanno questo tipo di problema, però bisogna a fronte di quello che stiamo dicendo, il gatto ha anche bisogno di muoversi e predare. Quindi anche se lì non porta prede in casa, eccetera, eccetera, anzi proprio per quello che diceva Rosita è fondamentale, cioè tu non puoi far vivere un gatto senza che abbia stimoli di questo genere e senza che faccia predazione, quindi devi ovviare no, il problema. Assolutamente, i gatti devono giocare almeno 4 volte al giorno, magari per pochi minuti, ma almeno 4 volte al giorno, e questi tutta la vita. Nel senso che il cane lo portiamo fuori tutta la vita, il gatto deve predare almeno 4 volte al giorno per pochi minuti tutta la vita, perciò le bacchettine, le canne da pesca, quelli che si muovono in maniera molto simile alla preda, e lo affascinano, e questo è voler dare una qualità di vita decorosa soprattutto a quei gatti che vivono chiusi tutta la vita, perché se ci dicessero di chiudere il cane in casa tutta la vita penseremmo tutti che è una cosa inaccettabile, e non si capisce perché si possa tenere chiuso il gatto in casa tutta la vita senza procurargli qualche cosa da fare che sia simile a quello che fa in natura, perciò la predazione, che è la l'occupazione principale. Giustissimo. Una cosa giustissima. Quindi sì. Primo consiglio per la nostra Laura ascoltatrice è quello di accettare le cose così come sono. Ce ne sono altri che ti vengono in mente, o questa è effettivamente la cosa unica e più importante? Questa è la cosa unica. Io però non farei disperare il gatto davanti alla gattaiola cercando di uscire, di entrare, però metterei una barriera visiva che gli faccia capire che la gattaiola è chiusa, che potrebbe essere anche solo una cosa di cartone, ma che gli faccia capire è chiusa, ti apro io, perché se no si dispera e pensa di poter avere una tana sicura anche in un momento di pericolo. Se lui pensa di avere una tana sicura è abbastanza angosciante l'idea di non potergli permettere di entrare quando ne ha bisogno. Almeno magari fornirgli un posto elevato all'esterno in modo che comunque si possa riparare, nascondersi in alto rispetto a stare in basso se ci fosse o un altro gatto o se per caso entrasse un cane, cioè di valutare la cosa cioè la possibilità di, quindi una mensola, qualcosa che si possa attaccare sopra la porta, vicino alla porta, o qualche cosa di sopraelevato, in modo che al limite possa stare lì se ha bisogno di stare di sicuro. Di dargli una barriera visiva che gli faccia capire veramente che la gattaiola è chiusa. Hai sentito, Laura? Sì, ho capito. Ringrazio. Bene, grazie Laura. Per qualunque altra cosa ci puoi scrivere ancora facci sapere come andrà. Vi ringrazio molto tutti. Grazie. Ciao. Laura Borromeo, grazie mille ancora per i tuoi preziosi consigli. Esperta. E a presto. Caso inusuale. Grazie, buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te. Ciao. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Adesso vi voglio leggere una lettera scritta da un ibis, dall'ultimo ibis eremita che purtroppo è stato ucciso qui in Italia. Mi avete impallinato e tirato giù dal cielo mentre ero in volo in Italia. Ho imparato a non perdere la strada e a sfruttare le correnti più calde. Ho imparato a volare verso la mia nuova casa e non sapete quanto mi era sembrata bella l'Italia mentre ero in volo lassù. Avevo imparato ad avere fiducia nell'uomo, ma i miei amici mi avevano nascosto quanto sia difficile per un uccello sopravvivere ai vostri fucili, alla vostra rabbia, alla vostra cattiveria. Ogni anno milioni di uccelli in volo in Italia vengono abbattuti per gioco e per beffa. È toccato così anche a me. La vostra rosa di pallini mi ha fatto cadere dal cielo. Era una giornata di pioggia, le guardie del WWF mi hanno raccolto bagnato e freddo. I miei occhi chiusi e la mia testa piegata hanno raccontato della vostra cattiveria. Hanno raccontato di un paese, l'Italia, dove la caccia uccide un patrimonio di vita e di futuro che è di tutti. Il mio sogno è finito, ma la mia speranza è affidata a tutte quelle persone che credono in un paese diverso, dove la caccia non disponga arrogantemente della vita degli animali selvatici e dove anche gli ibis eremita possano tornare a volare liberi. Non c'è cosa più... Non so cosa dirti... È un peccato. Gli ibis, voglio ricordare, vergognosa, sono uccelli bellissimi. A questi ibis era stato insegnato, tra l'altro, a migrare con un deltaplano, quindi... queste persone illuminate, compassionevoli, si erano messe lì a insegnare questi uccelli a fare avanti e dietro tra l'Austria e l'Italia, e ad un certo punto questo era probabilmente l'ultimo ibis europeo, è stato abbattuto da dei cacciatori che l'hanno visto così bello e hanno detto: dai, spariamoli. Senti, io non ti dico che cosa penso, perché tanto oramai la gente che ci ascolta lo sa, e non lo nascondo mai. Di base c'è che siamo veramente in un punto dove si deve capire da che parte si vuole stare, se vuoi stare dalla parte della soluzione o del problema. Perché la caccia? Che cosa ci dà in più? Noi pensiamo che sia lecito fare del male a qualcuno quando possiamo farlo. Cioè, sono nelle condizioni di poterlo fare, nessuno si arrabbia, non ci possono essere ritorsioni, quindi posso farlo. Sì, quando è legale. Quindi, quando qualcuno lo fa su di noi, e lì ci incazziamo perché ci si fa cattiveria, eccetera, eccetera. Noi ce la prendiamo col vigile che ci fa la multa, anche quando avrebbe ragione a farci la multa, e ci arrabbiamo con questa cosa qua, ma figurati. È lì che io dico che noi ci meritiamo veramente di ma non noi, io su questo non sono d'accordo, perché è altrettanto, insomma, non lo trovo intelligente, non si può generalizzare. Ci sono state delle persone che si sono messe in deltaplano e hanno insegnato a questi uccelli a migrare, appunto, se invece no, questi si devono estinguere, ma chi se ne frega, cioè, vuol dire, tanto guarda, io mi incazzo di più tu oggi sei per anche la soluzione pragmatica, molto pragmatica, l'umanità scompare, no, tutte le animali, perché veramente bisogna veramente prendere in mano. Ma io lo dico anche ai miei amici, io so ultimamente che i miei amici mi sopportano poco, perché gli spacco i maroni con quello che bisogna mangiare, su cosa bisogna mangiare, su come bisogna trattare gli animali. So che mi prendono per il culo perché io adesso cerco di non ammazzare la zanzara, ma cerco di accompagnarla fuori, o piuttosto metto delle cose che gli dà fastidio l'odore in modo che non mi entra in camera per pungermi. Non me ne frega niente a me di chi mi prende in giro, e mi piacerebbe che la gente capisse nel profondo, veramente ci vorrebbe un po' di arancia meccanica, gli pinzi le sopracciglia, gli fai vedere delle immagini. Ci vuole consapevolezza nella vita, è il momento di sapere che da dove arriva un paio d'occhiali, da dove arriva una pena, da dove arriva una giacca, da dove arriva una scarpa. È il momento di saperlo, poi ognuno facesse le scelte che vuole, però basta pigliarsi per il culo e prendere per il culo la gente. Bene, come sta diventando di consueto, il nostro quarto blocco diventa il momento animalista, e insomma vi volevamo dare questa notizia, per noi è triste, insomma l'ultimo ibis purtroppo è stato ammazzato dai cacciatori, ma passiamo gratuitamente poi, perché non c'era una motivazione. Per fare qualcosa di utile ai nostri animali dobbiamo capire cosa possiamo cucinare oggi per loro. Piatti e ciotole. E ci aiuta Mara Di Noia. Ciao a tutti. Ciao Mara. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Tutto bene. Bene. Tutto bene. Freddolita, ma bene. Infreddolita, ma c'è... E quindi con questo freddo, che cosa si può mangiare che ci riscalda un po'? Io pensavo appunto alla temperatura, e quindi di proporre per tutta la famiglia, animali compresi, una zuppa di avena e ceci oppure lenticchie, a seconda un po' di quello che avete magari in casa. E vi occorrono 250 grammi di legumi già cotti, quindi o ceci già cotti o lenticchie piccole. Aiutiamo la zona di Castelluccio, che mi sta tanto a cuore, comprando le lenticchie piccole. Che anche a me piacciono tanto quelle piccole. Sono bellissime anche. 180 grammi di avena in chicchi, due carote, un rametto di rosmarino, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e un cucchiaino di salsa di soia tamari o un'altra salsa di soia che voi trovate. Allora, cosa dovete fare? Salsa di soia tamarra, io avevo capito, perché tamarra, tamari. No, specifico tamari perché è una salsa di soia senza glutine, e questo è un buon piatto senza glutine, quindi se siamo attenti anche magari a questo aspetto per qualcuno in famiglia che vuole anche fare una dieta di questo tipo. Laviamo e lasciamo in ammollo l'avena per qualche ora, questo consentirà di abbreviare i tempi di cottura. Laviamo le carote, se sono biologiche le possiamo anche semplicemente spazzolare e tenere la buccia. Le affettiamo nel senso della lunghezza, ma non troppo sottilmente. Mettiamo le verdure insieme al rosmarino in una pentola con pochissimo olio. Le facciamo appassire velocemente. Uniamo i ceci o le lenticchie e l'avena insieme alle verdure, aggiungiamo l'acqua che sarà circa 4 volte il peso globale di cereale e ceci, quindi 280 grammi per 4. Portiamo a ebollizione, saliamo con il pizzichino di sale, cuociamo a fuoco moderato in una pentola coperta, così risparmiamo anche. per circa un'ora e mezza. A fine cottura possiamo aggiungere questo cucchiaino di salsa di soia oppure il regolare di sale dopo aver preparato la ciotola per i nostri amici. Quindi per il piatto umano possiamo magari anche abbondare di condimento e aggiungere un po' di olio, per la nostra ciotola invece stiamo sempre un po' più leggeri con i condimenti. Va bene. Wow. Un po' più leggeri per i nostri cani, sempre di condimento. Sempre, sempre, sì, questo sicuramente, ma fa bene anche a noi, per carità. Sì, si dice anche che teoricamente se uno mangia nel modo giusto e equilibrato non ci sia bisogno di aggiungere zucchero o sale, no? Negli alimenti. Allora, se ci abituiamo a dei gusti più naturali come questi, di queste ricette naturali, avremo diciamo anche un po' il disgusto a volte di mangiare una merendina troppo salata o una merendina confermo troppo dolce, industriale, proprio perché il gusto si ripristina a un livello naturale. Beh, sì, è verissimo. Confermo. Che è una cosa bella. Per chi ci stesse ascoltando e dice mi sono perso la ricetta, non avevo carta e penna, vi ricordo che queste ricette le potete andare a trovare sui podcast del nostro programma, ma sul sito di Radio 24. Per tutti gli altri, se volete sottoporci argomenti o commentare quello che facciamo qui, intervenire in diretta, ricordate la nostra mail chiedimi se sono felice @radio24.it. E invece chi volesse sapere altre più ricette può andare sul sito di Mara Di Noia, giusto? Giusto, www.vegaschef.it. Perfetto, Mara, grazie anche per questa domenica, alla prossima allora. Grazie a voi, buon appetito. Un abbraccio, grazie. Ciao, ciao, ciao. E grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima.